Unit 8. Benvenuti all'unità 8. Welcome to Unit 8. In questa unità, in this unit, ascoltiamo le parti più importanti, we're going to hear the most important sections, delle conversazioni fra Sara, Lorenzo e gli altri personaggi. Of the conversations between Sarah, Lorenzo and the other characters. Dall'arrivo di Sara a Firenze, from Sarah's arrival in Florence, nell'unità 1, in Unit 1, fino al ritorno all'albergo dopo la festa del vino a Greve, to the return to the hotel after the wine fair in Greve, nell'unità 7, in Unit 7. Ma ascolti molto attentamente, but listen very carefully, perché queste conversazioni non sono esattamente quelle nelle unità dalla 1 alla 7. Because these conversations are not exactly the same as those in units 1 to 7. Perché ci sono delle differenze? Why are there differences? Perché Sara adesso sa molte parole ed espressioni. Because Sarah knows a lot of words and phrases now. E comincia a parlare italiano. And she's beginning to speak Italian. Quindi, naturalmente, la storia è un po' diversa. So naturally, the story is a little different. In questa unità ci sono delle parole e delle espressioni nuove. In this unit there are a few new words and phrases. E le ascoltiamo fra un momento. And we'll hear those in a moment. Ma altrimenti ha già sentito, but otherwise you've already heard, tutto il vocabolario. All the vocabulary.